dispiace, devo andare via. Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere fra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi da dividere. Sono amori che spesso a questa età si confondono dentro a questa. Persi a piangere, rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Grandi amori che finiscono, ma perché restano nel cuore? Strani amori che vanno e amore vero senza te.